Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Martedì si ritorna ai martedì del lavoro. Di che tema parliamo oggi? Allora, ricordiamo che alla fine dello scorso anno è stato approvato un decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, un decreto che apre alla possibilità per imprese e lavoratori di avviare una sorta di patto generazionale all'interno delle imprese. Un patto che ha per protagonisti nuovi assunti e lavoratori più esperti, con l'obiettivo di assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni e di mantenere contemporaneamente condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione invece meno giovani. In parole povere, il lavoratore anziano, quello più maturo, diciamo così, che è un termine più dignitoso, più carino, accetta di stipulare un contratto part-time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato, in cambio di agevolazioni che consentono al lavoratore giovane di essere assunto invece con contratto di apprendistato a tempo indeterminato e con la garanzia per l'anziano di un'adeguata copertura pensionistica. Allora, noi oggi parliamo di questo meccanismo, spieghiamo il funzionamento di questo sistema e di altri strumenti predisposti per incentivare il turnover dei lavoratori, rispondendo anche alle domande degli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Buongiorno e bentornata l'avvocato Giampiero Falasca, giurista, jus laborista, esperto su questi argomenti per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno Deborah. Bentornato anche il nostro consulente del lavoro Alessandro Rottaporta, bentornato anche a lei. Buongiorno, grazie dell'invito. Oltre a che essere consulente del lavoro, insieme all'avvocato Falasca sono anche i consulenti di Salva Danaio su questi argomenti delicatissimi ma anche molto belli, perché quello della staffetta generazionale ci ha davvero appassionato. E poi ringrazio e saluto per la sua partecipazione anche il dottor Angelo Irano, dirigente capo progetto anche della staffetta generazionale per Italia Lavoro, che è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia ed opera per legge come ente strumentale del Ministero del Lavoro per la promozione e le azioni nel campo delle politiche del lavoro. Dottor Irano, ho detto tutto correttamente? Perfetto, buongiorno a tutti. Grazie anche a lei. Allora, nella sostanza poi questa società fa azione di assistenza anche agli enti locali, che sono parte integrante in questi accordi tra azienda appunto e lavoratori per applicare la cosiddetta staffetta generazionale al loro interno. Oltre al numero verde per intervenire in diretta avete anche altre modalità, come sapete, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Scriveteci anche le vostre mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, andate a curiosare anche sul nostro profilo, mettete il like così siamo sempre di più, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. La reputazione del mercato italiano su scala internazionale continua a perdere colpi, purtroppo, e qua abbiamo oggi un nuovo caso dirompente, lo avete sentito anche nel giornale radio, l'arresto dei vertici di Finmeccanica, il presidente amministratore delegato Giuseppe Orsi in manette, finito nelle scorse ore per un presunto giro di tangenti, un presunto giro di corruzione internazionale nell'ambito di un'inchiesta della procura di Busto Arsizio, tangenti che sarebbero circolate nei confronti appunto del governo indiano. Non stiamo a ripetere tutta la notizia che è stata raccontata nel dettaglio dalla nostra Raffaella Calandra. Beh, questo oggi basta a far precipitare le azioni. Finmeccanica perde l'8,40%, non riusciva a prendere il via. Questa mattina la seduta per questa società della difesa, il gruppo perdeva 13,5 punti, ma adesso a questo -8 non riesce appunto a migliorare. Porta con sé anche Ansaldo, che per la verità penalizzata anche dai conti diffusi ieri sera, che già non erano piaciuti tanto agli investitori, e stamattina insomma si mettono insieme due fattori, il titolo scende. Poi abbiamo Pirelli, -2,30, le novità giudiziarie su Monte dei Paschi, c'è un nuovo avviso a comparire per l'ex presidente Mussari, il gruppo perde l'1,76%, di nuovo a Milano a 24 centesimi, chi si salva? La solita Popolare di Milano, che ormai è diventata la protagonista assoluta delle contrattazioni, +4%, il gruppo è pronto a cambiare governance, si trasforma in SPA, una prospettiva che piace molto al mercato, è nel Green Power +59%, la borsa nel complesso guadagna lo 0,29%, la notizia sull'asta di stamattina del Tesoro italiano, rendimenti in rialzo per i bot assegnati oggi, rendimenti che tornano oltre la soglia dell'1%, il bot annuale offerto per 8 miliardi e mezzo di euro, gli investitori ne hanno richiesti quasi 12 miliardi, è stato collocato con un rendimento lordo dell'1,09%, quindi in rialzo rispetto all'asta del mese scorso. Direi che per la borsa possiamo lasciare qua, andiamo al tema di oggi, torniamo ai martedì del lavoro, oggi un tema molto molto bello, il passaggio generazionale. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know, find a girl. Il lavoratore più anziano che fa un passo indietro per dare spazio e opportunità al giovane e permettergli di trovare un'occupazione. Un gesto nobile, un patto di solidarietà tra le generazioni. Detta così, può sembrare un'utopia molto poco realizzabile, ma questa possibilità è stata effettivamente progettata e messa in campo da un decreto firmato alla fine del 2012 dal ministro del Lavoro Elsa Fornero. Il provvedimento prevede la possibilità di concludere un accordo fra 5 attori diversi: soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani. Il lavoratore esperto accetta di accontentarsi di un contratto part-time che va a sostituire il suo vecchio contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore giovane viene assunto con un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. I soggetti pubblici, nello specifico regioni e province, si faranno carico di versare all'ente di previdenza i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato. L'unico vincolo è che, nella stipula del nuovo contratto sottoscritto con il giovane e con la trasformazione del rapporto di lavoro dell'anziano dipendente, il saldo occupazionale dell'azienda si mantenga attivo e mai negativo. Quella del patto generazionale è insomma un'idea per sbloccare il mercato del lavoro e offrire un'opportunità ai più giovani, senza far mancare troppo a quei cosiddetti anziani, che comunque nella società di oggi sono in un modo o nell'altro chiamati spesso a fare sacrifici per i più giovani che non riescono a diventare indipendenti, se non sul lavoro, all'interno delle mura domestiche. Una possibilità che il ministro Fornero non a caso definisce una prospettiva, anche etica, di grande respiro, che si auspica possa in futuro sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e più inclusiva. Vogliamo goderci Father and Son di Cat Stevens fino all'ultimo e quindi ancora i complimenti al nostro Marco Lombardo che sceglie sempre le colonne sonore più idonee ad accompagnare i nostri argomenti. Il tema è comunque davvero molto bello e a noi sembra anche un'impostazione sensata quella che il Ministero del Lavoro ha voluto dare. Detto questo, poi sicuramente ci saranno delle difficoltà, magari non sarà così facile applicare alla lettera normativa che consente questa staffetta generazionale. Avvocato Farasca, voglio coinvolgere subito il giurista, il jus lavorista su questo argomento. Esisteva nella fase precedente al ministro Fornero un istituto simile a questo? No, è una novità di quest'ultimo pezzo di legislatura. Diciamo, in passato, qualche anno fa, intorno al 2007, fu fatto di qualcosa di analogo, fu prevista la possibilità per i lavoratori anziani di uscire con il part-time e favorire in questo modo l'ingresso dei lavoratori più giovani. Qui la vera novità è la copertura previdenziale, cioè dov'è il punto di forza di quest'idea? Il punto di forza è che la persona che passa da tempo pieno a part-time, quindi il lavoratore cosiddetto anziano, che poi è una terminologia tipica dell'ordinamento comunitario, quindi va bene, diciamo, per dire il lavoratore over 50, no? Anche se anziano non è. Assolutamente no. Guardi che io ci sto andando dritta verso questa parte. Ancora me ne manca qualcuno. E diciamo, lavorando meno tempo con il sistema contributivo, versa meno contributi, è un danno pensionistico. Quindi il fatto che qualcuno gli copra la parte dei contributi va bene. Se vuole le dico subito anche il punto di caduta, qual è. Il punto debole, chiamiamolo così. Il punto debole, molto debole, diciamo, perché un'idea così nobile e bella meriterebbe una valorizzazione. Allora, il punto debole, l'ha detto la scheda di prima, 5 attori che devono firmare un accordo, il coinvolgimento degli enti locali, uno stanziamento di risorse bassissimo, mi pare qualche decina di milioni di euro. 40 milioni di euro, poi ce lo precisa il dottor Irano. Ecco, questo vuol dire che sarà una sperimentazione molto difficile da attivare. Poi dopo, se parliamo dell'apprendistato, vediamo come quando gli attori sono troppi, quando l'intermediazione pubblica è troppo presente, ci si impantana in procedure, in moduli e quant'altro. Quando nel pollaio ci sono troppi galli a cantare, insomma. Esatto, e poi c'è anche un problema, che noi diciamo abbiamo un grande slancio quando lanciamo questi progetti, noi come pubblica amministrazione italiana, no? E poi invece quando bisogna veramente poi darle le risorse, sorgono il timbro, la marca da bollo, il requisito che manca e quant'altro. Io sono un po' spaventato proprio perché l'idea è forte, è dirompente e potrebbe avere successo. Non vorrei che si rivelasse l'ennesima delusione poi per l'impresa che ci crede. Certo, beh, sentiremo adesso anche Italia Lavoro che cosa ne pensa. È anche vero, appunto, lei lo ha precisato, siamo ancora intanto ai primi step, due regioni che stanno sperimentando, è una fase sperimentale, quindi 40 milioni di euro per coprire almeno queste prime battute. Certo. Se dovesse funzionare, forse magari i prossimi governi potrebbero anche impegnarsi ad elargire qualcosa di più, non trova? Esatto. Bisognerà vedere come funziona. Esatto, bisogna vedere come funziona. Consideriamo anche appunto che è una misura poi che in qualche modo ha bisogno che ci sia davanti a sé un mercato del lavoro vitale, nel senso che poi queste non sono mai misure che da solo stimolano occupazione, perché l'idea poi è quella di fare un saldo di più 0,5, no? Cioè esce mezzo rapporto di lavoro, ne entra uno intero e il saldo è positivo. Però appunto l'impresa oggi, perché non, questi incentivi spesso non funzionano? Perché non si fida. Ok, come gli sgravi sulla produttività, ogni anno cambiano le regole, vengono rimessi in discussione, con il risultato che le imprese ormai prendono le decisioni a prescindere dagli sgravi. Su questa vicenda qui bisogna, Italia Lavoro è importante che sia coinvolta perché è sempre molto efficace, però bisogna dare un'applicazione coerente, semplice e facile per le aziende, perché qui l'azienda dovrebbe fare tutto questo meccanismo, che significa convincere il lavoratore a cambiare il contratto, trovare il nuovo lavoratore, partire quant'altro, e poi presentare l'incartamento, chiamiamolo così, al soggetto pubblico che dovrebbe finanziare i contributi. Si immagina cosa succede se poi c'è un diniego, oppure non ci sono risorse, oppure no. Quindi l'aspetto applicativo non è banale, ma rischia di minare. Certo. Italia Lavoro dovrebbe nella teoria impegnarsi a fare in modo che tutti questi imbuti poi, quando ci si deve interfacciare con gli enti pubblici, non ci siano. Dottor Irano di Italia Lavoro, ancora buongiorno. Ha sentito le perplessità espresse appunto dal giurista su questo argomento così delicato? Sono delle perplessità condivisibili? Sì, sono condivisibili, ma come in tutte le innovazioni si sconta un periodo di avviamento. Noi abbiamo cercato insieme al Ministero di definire delle linee guida le più semplici possibili, che riducano al minimo l'eccesso di burocrazia. I timbri, ecco, come li chiamava l'avvocato Falaschi. La presenza stessa di Italia Lavoro ha proprio questa funzione di facilitazione. Però se noi consideriamo il contratto part-time, di per sé, al di là della staffetta generazionale, il contratto part-time chiama in causa tre soggetti: lavoratore, azienda e INPS, e quindi è necessario un accordo tra le parti, e questo è un aspetto anche nella staffetta che abbiamo dovuto considerare, cioè affinché un lavoratore accetti il part-time deve dare la sua disponibilità. E non è sufficiente questa sua disponibilità se poi l'impresa non è d'accordo a mettere il lavoratore in part-time. Quindi noi ripercorriamo lo stesso percorso che si segue nel momento in cui si avvia un contratto di part-time nell'accordo tra lavoratore e azienda. Qual è l'elemento aggiuntivo? È un accordo tra le parti che noi sollecitiamo non solo per gestire la misura specifica, ma lo sollecitiamo perché vogliamo utilizzare questa prassi in una prospettiva di invecchiamento attivo della popolazione. Questa è una sperimentazione che mette al momento a disposizione 40 milioni di euro. e quindi potrà essere rivolta ad una popolazione che si aggira sulle 3.000 unità di lavoratori anziani e 3.000 giovani che dovrebbero entrare come nuovi assunti dalle aziende. Però la prospettiva è quella di tirar fuori una buona prassi che possa essere posizionata come una politica attiva che favorisce l'invecchiamento attivo dei lavoratori. E certo, anche perché questa è, come dire, la ratio che sta alla base anche delle ultime riforme delle pensioni. La nostra è una società che invecchia progressivamente, i lavoratori vanno in pensione sempre più tardi, ma è chiaro che negli ultimi anni di lavoro non si ha più la forza, il Papa insegna, né la lucidità per lavorare esattamente come si faceva a 40 anni, no? A 70 chiaramente le condizioni fisiche e mentali sono diverse, per cui anche questo è un processo di accompagnamento verso l'età della pensione che si fa sempre più tardivo, dottore Irano, no? In una maniera costruttiva, immagino. Quindi, Sì, anche perché la necessità dell'accordo noi la richiamiamo per produrre un altro effetto. Noi vorremmo che ai 40 milioni messi in disponibilità dal Ministero si aggiungessero altre risorse da subito a livello territoriale. Ad esempio, nel caso della Lombardia, dove la sperimentazione è in fase avanzata, alle risorse del Ministero si sono aggiunte quelle messe in disponibilità dalle aziende attraverso i fondi interprofessionali. Ecco, quindi l'accordo non tra le parti datoriali e di rappresentanza dei lavoratori non deve essere vissuto come un rallentamento del processo, ma deve essere utilizzato per accumulare più risorse su questa sperimentazione e quindi consentire a più persone di poter aderire a questo percorso. Lombardia già è successo. Esatto, adesso ce lo racconta dottor Irano. Volevo però far esprimere un parere anche al nostro consulente del lavoro, ad Alessandro Rotaporta, che tutti i giorni incontra le aziende, appunto, e le informa su quello che sta cambiando nel mercato del lavoro. C'è interesse intorno alla staffetta generazionale, Rotaporta? Sicuramente, come è stato detto finora, è un meccanismo che è ancora a livello embrionale, quindi probabilmente necessita, come diceva anche l'avvocato Falasca, della giusta partenza proprio per dare quella fiducia alle aziende che il meccanismo è effettivamente operativo e di procedura ben definita. Accanto a questo, io ricorderei anche che, visto che abbiamo parlato di provvedimenti del governo uscente, anche una norma che è contenuta nella riforma del mercato del lavoro, quindi nella riforma Fornero, che non dà direttamente spunto al patto generazionale, ma può indirettamente favorirlo, che è quella della possibilità per le aziende di attaccarsi con la procedura dell'esodo nel caso appunto dei lavoratori che abbiano un arco temporale non superiore a 4 anni per il raggiungimento della pensione, e quindi accompagnarli con degli accordi sindacali verso la pensione. Questo potrebbe essere anche un meccanismo che si va a collocare sempre in quest'ambito di staffetta tra i giovani e tra gli anziani e i giovani, quindi questa è anche una norma che non è diretta come il discorso, come il decreto che si citava prima, però può anche questa favorire questo meccanismo. Certo, allora ci fermiamo, le cose dette fino a questo momento sono decisamente interessanti. Adesso cercheremo di capire nel concreto come funziona questo patto generazionale, magari raccontando bene cosa sta facendo la Regione Lombardia. Ce n'è anche un'altra che sta sperimentando questo nuovo meccanismo, che dovrebbe essere, se non mi ricordo male, il Friuli Venezia Giulia, quindi cosa devono fare anche le aziende, oltre a firmare gli accordi naturalmente anche con le altre parti sociali, con gli enti pubblici, con gli enti locali, ma soprattutto poi all'interno dell'azienda cosa succede nella relazione anche tra il lavoratore anziano e il nuovo che entra. It's not time to make a change, just relax. Take it easy. Eccoci di nuovo in diretta con Salva Danaghi, il martedì del lavoro. Oggi parliamo del patto generazionale, cioè quel patto che si crea all'interno di un'azienda quando un lavoratore, secondo quanto stabilisce un decreto del ministro Fornero della fine di dicembre, quando un lavoratore anziano appunto accetta un contratto part-time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato, e un lavoratore giovane invece viene assunto con contratto a tempo indeterminato di apprendistato, e quindi chiaramente di tutto questo meccanismo meccanismo che sicuramente è nobile, molto interessante, si fa sponsor l'azienda che però deve negoziare tutto questo anche con le parti sociali, le altre parti sociali, i sindacati, e soprattutto devono essere chiamati in causa anche gli enti locali, perché questi percorsi poi si costruiscono all'interno delle regioni che ci mettono delle risorse per fare in modo che questo rapporto funzioni. E cioè che cosa significa? Che il lavoratore anziano che naturalmente versa meno contributi, lo fa l'azienda per conto suo naturalmente, in qualche maniera deve essere compensato per questo sacrificio che fa, e di questo ulteriore carico contributivo si fa appunto carico l'ente locale. Tutto così facile? No, sta partendo tutto adesso e ci sono delle regioni che sono già partite, come per esempio la regione Lombardia. Italia Lavoro ha fatto da consulente anche alla regione Lombardia, dottor Irano, come sono partiti qua? Chiaramente stiamo parlando di una regione che ha anche delle strutture, delle relazioni molto diverse rispetto per esempio a quello che può succedere in altre parti d'Italia, dove forse magari i meccanismi saranno più complicati, farraginosi, però insomma qual è la best practice che la Lombardia sta attivando? Ma sicuramente la Lombardia rappresenta un buon esempio in quanto a velocità, in quanto a definizione degli accordi, perché siamo nella fase più evoluta. Gli accordi tra le parti sociali sono stati già sottoscritti, infatti Asso Lombarda insieme a CGL, CISL e UIVD già hanno sottoscritto l'accordo. Vi è stata anche una convenzione sottoscritta con l'INPS da parte di Regione Lombardia e vi è un accordo tra Regione Lombardia e parti sociali per attivare la staffetta. È già pronto il bando, quindi siamo ormai addirittura d'arrivo, la misura nelle prossime settimane può essere messa in disponibilità del c'è territorio. Un bando, perché le aziende devono sapere che esiste questa possibilità. Tra l'altro la Regione Lombardia di quante risorse dispone di questi 40 milioni di euro? Mi sembra 3 milioni a disposizione. La scelta lì fatta dalla Regione Lombardia e dalle parti sociali è stata quella di sperimentare l'intervento in 3 aree territoriali, Milano, Monza e la Brianza. Il valore aggiunto è stato quello che Asso Lombarda mette a disposizione i fondi interprofessionali per accompagnare con percorsi formativi i lavoratori anziani che daranno la disponibilità ad un contratto part time. Questo è un aspetto molto significativo, perché la misura viene vissuta in termini concreti come una misura che favorisce l'invecchiamento attivo. Se consideriamo l'assunzione del giovane da parte delle aziende lombarde attraverso un contratto di apprendistato, la figura dell'anziano tranquillamente può essere utilizzata come tutor, così che è quel requisito fondamentale, esatto, della normativa. Quindi abbiamo una doppia convenienza: garantiamo il delta contributivo che il lavoratore anziano rischierebbe di perdere in assenza di questa misura, ma al tempo stesso favoriamo l'immissione all'interno dei processi aziendali di quei contratti che sono più convenienti per l'azienda, come il contratto per apprendistato. Ricordiamo che si trascina una serie di incentivi che sono molto importanti per l'azienda, infatti le aziende fino a 9 dipendenti con il contratto di apprendistato hanno la possibilità di ridurre del 100% la contribuzione a loro carico, le aziende con più di 9 dipendenti hanno la possibilità di avere uno sgravio contributivo che è il 10% della contribuzione di riferimento. E allora, quindi sentiamo c'è adesso una doppia agevolazione. Sentiamo quali sono però le perplessità di chi ci sta ascoltando questa mattina, perché così un po' come per tutte le questioni che affrontiamo, non solo sull'ambito lavoro, nell'ambito del lavoro, ma tutte quelle che affrontiamo, tutto funziona sempre perfettamente. Poi chiaramente quando si passa al terreno pratico invece c'è sempre qualche complicazione in più. Allora vorrei subito sentire intanto Antonella da Prato, che saluto. Antonella, buongiorno, benvenuta. Buongiorno dottoressa Rosciani, buongiorno ai vostri ospiti. Ci dica. Io sono un insegnante e ascoltavo la vostra trasmissione, che quando sono a casa posso e seguo con molto interesse ogni vostra rubrica, e vi faccio i miei complimenti perché siete davvero fantastici. Grazie. L'argomento che state trattando stamattina credo sia veramente di notevole importanza, e solo ho sentito parlare di pubblico impiego. La mia domanda è molto semplice, vorrei sapere se questo turnover generazionale potesse essere esteso, parlando di pubblico impiego, anche alla scuola, dal momento che nella scuola noi abbiamo una serie svariata di precari che potrebbero in questo modo trovare uno sbocco lavorativo. Che sono tra l'altro impegnati in questo periodo con il concorsone, di cui le prime prove scritte di ieri appunto sono state peraltro rinviate per la neve. Avvocato Falasca, ci aiuta lei? Nella scuola potrebbe essere un buon... Diciamo così che la strada da fare è ancora tanta, quindi non diamo, cioè non è il mio ruolo, anche se dicessi che si può fare e cambiare le cose, ma io non darei troppe illusioni, nel senso che giustamente, come ha detto il dottor Irano, per ora si sta sperimentando in 3 province lombarde, in un'altra regione con 30-40 milioni. Comunque solo nel privato? Solo nel privato, ecco. Ho fatto un calcolo a naso, poi magari sbaglio, se ho capito ci possono rientrare 80-90 persone, questo del privato, quindi insomma diciamo che questo è un po' un difetto nostro di sistema, no? Che al limite arriviamo a creare l'idea, ma poi l'impatto sul mercato è bassissimo, quindi direi alla professoressa che diciamo non so se faremo in tempo a vederla una cosa del genere, credo che sia molto molto lontana, insomma. Avvocato Falasca, lei, la signora Fornero o forse anche il ministro del lavoro successivo magari l'ha incontrata spesso, la conosce molto bene, le incontrerà forse anche in futuro, magari si faccia portavoce di queste idee, di questi suggerimenti che sente alla radio, no? Così molto concreti. Esatto, io dico questo, no? L'ho detto anche prima e ci voglio tornare. Il problema di questi incentivi, cioè gli incentivi si fanno per orientare i comportamenti. Ok, io ho la sensazione che anche questa misura, che è una bella misura concettualmente, non orienterà comportamenti, ma al limite andrà a coprire decisioni già prese. Perché ci sono passaggi tecnici forse ineliminabili, ma che sono incompatibili con la velocità e con il tipo di dinamiche con cui oggi le aziende pianificano il personale, pianificano le assunzioni, convincono le persone a uscire, a entrare e quant'altro. Quindi un pochino io sono scettico solo per questo motivo. E quindi ho l'impressione appunto che interverranno dopo che la scelta è già fatta. Benissimo, abbiamo capito con grande chiarezza la sua posizione. Andiamo ad altre domande pratiche dei nostri ascoltatori. Antonio, altre 49238-6666 ci scrive: da che età possiamo usufruire della staffetta come anziani? Non tanto anziani, Alessandro Rottaporta, qua siamo sui 50 anni, giusto? Ma qui il requisito, ad esempio, si parlava di uno dei progetti pilota, che è quello della Lombardia. Ad esempio in Lombardia è stato deciso che la staffetta si possa fare con lavoratori che quindi dipendenti a cui manchino non più di 36 mesi alla pensione, quindi non è tanto il requisito anagrafico quanto quello requisito che consente l'accesso al trattamento pensionistico. Il contributivo, quindi, diciamo, proprio per essere molto generici. Esatto, quindi il criterio che è stato utilizzato ad esempio in Lombardia è quello che la staffetta possa venire con lavoratori che non abbiano da aspettare più di 36, più di 3 anni, quindi ad accedere alla pensione. Tornerei, se posso, solo velocissimamente sul discorso della contribuzione sull'apprendistato, quindi che è agevolata, come diceva il dottor Irano. Ricordiamo però che con l'ingresso dell'ASPI, anche se la percentuale è più a livello psicologico che non nel concreto, però anche le microaziende, quindi quelle che sono state citate con meno di 9 addetti, anche queste dal 1 gennaio 2013 un po' di contribuzione, che poi è l'1,61, saranno chiamate a pagarlo, perché gli apprendisti a regime avranno diritto alla nuova indennità di disoccupazione, certo, quindi di fatto lo sgravio totale per l'apprendistato non esiste più, e anche questo può essere un deterrente, perché comunque a livello psicologico prima si parlava, per questa tipologia di aziende, di uno sgravio al 100%, quindi totale, cosa che adesso non esiste più. Quindi non c'è solamente il deterrente, diciamo, burocratico che sollevava Falasca, ma c'è anche il fatto che effettivamente un effettivo risparmio magari ad incentivo le aziende non ce lo avranno nel medio termine. Sì, ce l'avranno, ma non ad esempio le microaziende non più al 100%. Poi ricordiamo anche un altro vincolo, il contributo ad esempio introdotto sul recesso, quindi il famoso ticket di cui hanno parlato i media nell'ultimo periodo, che il datore di lavoro è chiamato a versare all'INPS in caso di un recesso da un contratto a tempo indeterminato, ricomprende anche il recesso al termine del periodo di formazione in apprendistato, quindi anche questo potrebbe essere un altro freno che poi è uno dei freni che sta attualmente rallentando la diffusione dell'apprendistato. Certo, poi faremo rispondere punto per punto anche al dottor Irano. C'è da dire, leggevo poco fa appunto, poi me l'ero ricordato tra i miei punti, che in realtà ci deve essere anche un monitoraggio costante sulle aziende che vogliono appunto applicare questo modello, per capire intanto se si verifica quel famoso saldo aziendale appunto che è requisito. Avvocato Falasca. Quello io perché sono malato poi di contenzioso, noi avvocati siamo così, no? Quello che a me preoccupa è capire poi se per caso questo saldo non viene riscontrato, perché quello che dicevo prima, faccio tutta l'operazione, ma poi c'è un soggetto terzo che deve essere d'accordo sul fatto che il saldo positivo c'è stato, e quindi comunque io mi rimetto a un giudizio che non ha mai la tempestività di cui avrei bisogno, e comunque anche a un margine di discrezionalità. Ma diciamo, ora non voglio essere per forza distruttivo, questo era solo un monito affinché si faccia tutto bene e con semplicità. Però ecco, questo è un aspetto importante, io devo essere certo prima se avrò o meno, perché capisce quanto è impegnativa la decisione. Sentiamo un po' Riccardo da Bologna. Riccardo, poi buongiorno, andiamo in pausa. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, lei e i suoi ospiti. Sì. Io le chiedevo, dov'è il vantaggio per il lavoratore che accetta il lavoro part-time rispetto alla pensione che poi andrà a percepire, visto che c'è il sistema contributivo? Dov'è il vantaggio del giovane? Cos'è? Solo di dover andare a lavorare, chiaramente con uno stipendio inferiore perché non è specializzato ed è apprendista. Dove sono le risorse? Perché si devono pagare gli enti locali, se sono comuni e province, si sta dicendo da tantissimo tempo che nessuno di questi enti ha un soldo. Quindi, se tutto ciò non è una missione, che la riforma delle pensioni fatta dalla stessa Fornero sia un mezzo fallimento, perché è evidente che mandare le persone in pensione a 67 anni è un'assurdità. Riccardo, lei non ce l'ha proprio mandata a dire stamattina, insomma, bene. It's not time to make a change. Non tentate di edulcorare la pillola, di addolcire la pillola, perché qua dobbiamo affrontare tutti gli aspetti che Riccardo da Bologna ha sollevato sul tema di questa mattina. La staffetta generazionale in via di principio è, come dire, un meccanismo assolutamente nobile, però appunto nella pratica vedremo un po' quali tipo di difficoltà troveranno le imprese che vorranno applicare questo modello. Ma soprattutto Riccardo sollevava la questione dei vantaggi per tutti gli attori in campo. Allora, Angelo Irano, Italia Lavoro, devo di nuovo ricoinvolgere lei, no? Ha sentito probabilmente le domande che si fa l'ascoltatore, possono anche essere quelle che si fanno un po' tutti. E poi tra l'altro, guardi, le faccio anche un'altra domanda, sempre per mantenerci sulla strada concreta. Un ascoltatore ci scrive: io ho proprio due figlie inoccupate in Brianza, che è l'area della regione Lombardia dove si possono già applicare questi modelli, perché la Lombardia è già partita con la sperimentazione. Cosa devono fare per poter accedere a questa opportunità? Come fanno a capire quali aziende già applicano la staffetta? Dottor Irano. Partiamo dalle preoccupazioni di Riccardo, che sono legittime, ma l'Italia ha un problema, che muoiono molte meno persone di quelle che non nascono, e con questo problema noi dobbiamo fare i conti. È una bella cosa che si vive di più, ovviamente questo ha un impatto sull'organizzazione del lavoro e sull'organizzazione della nostra della previdenza. Se c'è questo saldo negativo, noi dovremo costruire un meccanismo per fare in modo che il sistema contributivo regga, e allora se non lo affrontiamo in un'ottica di solidarietà intergenerazionale, c'è il rischio che questo paese, attendere da qui al 2050, rischia di essere un paese estremamente invecchiato, e dove le risorse giovani, che sono quelle più produttive, per gli impedimenti determinati dalle crisi ormai che da congiunturali sono diventate strutturali, utilizziamo questa risorsa e troviamo i meccanismi più propri per utilizzarla, corriamo il rischio che il sistema non regga. Quindi non vi è dubbio che in Italia occorre lavorare di più e per più lungo tempo. Certo. Ovviamente lo Stato deve fare in modo di agevolare questo processo con delle politiche finalizzate all'invecchiamento attivo e con delle politiche che favoriscano l'assunzione dei giovani da parte delle aziende. Ci aiuta la nuova programmazione europea. Oggi le risorse nostre italiane sono scarse, ma nessuno ci impedisce con una opportuna programmazione delle risorse comunitarie 2014-2020 di destinarle a finanziare questa buona prassi. Lei ricorderà in molte delle regioni del sud l'incapacità di utilizzo delle risorse europee ha determinato la condizione che venissero restituite all'Europa cifre che si aggirano intorno agli 8 miliardi di euro. Ecco, noi dobbiamo realizzare una buona programmazione, dobbiamo mettere in campo buone idee e finalizzare le risorse su obiettivi concreti di occupazione dei giovani e di invecchiamento attivo per gli anziani. E quindi ritornando al tema dei vantaggi di tutti gli attori in campo, il lavoratore che naturalmente ha una certa età e accetta di lavorare part-time, non ci dimentichiamo che qualche volta si può fare anche una scelta di natura personale, di vita, per cui si dice guarda, sai che c'è, ho bisogno a casa, ho i nipotini da guardare, mezza giornata a stare in casa mi fa comodo, rinuncio a qualcosina, faccio contemporaneamente il tutor per il nuovo che entra, dottor Irano, per cui qualche volta anche la sfera personale non ce la dimentichiamo. Assolutamente. Non è che uno è obbligato a farlo. È un bisogno anche dell'anziano di gestire il proprio periodo di lavoro in maniera flessibile. Sappiamo bene che c'è un calo di produttività negli ultimi anni di lavoro e questo calo di produttività spesso si associa a nuove esigenze di carattere familiare. Il part-time è di per sé un contratto che agevola questa condizione anche personale del lavoratore ed è uno strumento che favorisce l'inserimento delle donne, ad esempio, nel processo produttivo perché hanno un problema maggiore di accudimento dei familiari, dei figli. Gli anziani hanno maggiore necessità anche di cura individuale, per cui soddisfa pienamente la necessità e quindi va incontro a soddisfare un bisogno che in quel periodo di vita lavorativa l'anziano si ritrova a vivere. Ovviamente sì. Lo Stato interviene per evitare i danni e quindi il vantaggio qual è? È che anche lavorando meno l'anziano vedrà dei versamenti contributivi inalterati, quindi non intacca l'aspettativa di una pensione che abbia senso, ecco. Allora, tra l'altro, avvocato Falasca, magari lo faccio dire a lei questo, per coloro che magari risiedono nelle zone che sono già partite con questa sperimentazione, dove si può andare a cercare informazione? Non si deve certo bussare alla porta di tutte le possibili aziende. No, presumo che, insomma, di non sbagliare, dire di andare sul sito della Regione Lombardia o di Italia Lavoro e vedranno le informazioni, insomma. Certo. Ovviamente io, rispondendo alla domanda dell'ascoltatrice che ha chiesto questo, direi che i figli non devono concentrarsi solo sul territorio o sulle aziende che sperimenteranno questa misura. Più in generale, e questo si lega anche alla domanda di prima, io starei attento a dire che l'apprendistato per i giovani non è conveniente, perché un pochino si dice qual è la convenienza per il giovane che ha uno stipendio più basso, ma non è vero. Guardate, oggi se c'è una speranza occupazionale per i giovani è proprio il nuovo apprendistato. Cioè, il problema è che spesso riponiamo nelle leggi del lavoro delle speranze eccessive, diciamo è il mercato che farà i posti di lavoro, le leggi possono accentuare o rallentare questi processi. La legge sull'apprendistato, la normativa degli ultimi due anni, facilita l'ingresso al lavoro dei giovani, quindi ora patto generazionale o no, e il problema è che poi si deve creare un contesto produttivo, quindi E qua è tutto un altro paio di maniche, come dire, speriamo noi che riparta. Caschiamo in questo errore, spesso siamo noi giuslavoristi a indurlo questo errore, nel credere e far credere che cambiando la virgola, cambiando la norma, aumenti il saldo occupazionale. Non è così. Diciamo, le leggi sul lavoro sono come gli allenatori di calcio. Diciamo, già se non fanno danni è un ottimo risultato. Ma in un mercato, in un contesto economico che fosse molto favorevole, molto brillante, secondo lei questa staffetta generazionale potrebbe essere accolta anche da tutti gli scettici che ci stanno scrivendo questa mattina favorevolmente? Io penso che sia una misura di nicchia, ma che è giusto che sia così. Cioè, perché l'ha detto lei prima, qual è il vero vantaggio per il lavoratore cosiddetto anziano? Se c'è un'opzione personale di lavorare di meno, allora ha senso. Ma ovviamente, non essendo una misura che potrà essere imposta a nessuno, coprirà sempre. Però in qualsiasi paese moderno e civile una misura del genere sarebbe nel set degli strumenti delle politiche del lavoro. Ma sai, tutti coloro che hanno anche contestato le recenti riforme delle pensioni, che si sono lamentate per il fatto che magari avendo raggiunto il requisito anagrafico per andare in pensione non ci sono potuti andare perché i requisiti sono stati spostati, magari approfittare a metà di questa opportunità, si accontentano a metà, insomma. Posso fare una proposta al ministro, che sicuramente ci starà ascoltando, che tra l'altro lei vede tra poco, dai. No, diciamo, la proposta sarebbe molto semplice, sarebbe quella di rendere automatico l'incentivo contributivo per il lavoratore, no? Per il lavoratore anziano. È lì il ci punto sono di... i soldi per farlo? Allora, perché dobbiamo fare tutte queste che procedure? Che cosa ci fa queste proposte senza portafoglio, avvocato Falasca? L'ultima osservazione la faccio fare da Danilo da Vercelli. Danilo, rapidissimo, se ce la fa, la ringrazio molto, però aveva una bella cosa da raccontarci. Buongiorno, sono un lavoratore diversamente giovane, bancario. Sono perplesso per quanto riguarda le aziende private, perché comunque è un'esperienza personale che dimostra effettivamente che, ad esempio, le banche, dove io lavoro in banca, pur in presenza intanto di un accordo del contratto recente che prevede già questa possibilità dei 57 anni in poi, non è stato mai applicato. Ma nel mio caso personale, che mi sono messo part time volontariamente completamente a mie spese per avere una migliore qualità di vita, mi sono ritrovato ad averlo negato tassativamente, e quindi non mi è stato rinnovato. Pur nell'ottica che le banche cercano di diminuire i costi sul personale, eccetera, nei fatti dimostrano che le loro politiche vere sono diverse. Beh, certo, allora intanto magari dalle sue parti forse ancora non sono partiti, bisognerebbe anche che il sindacato del settore bancario si informasse molto bene su questa opportunità e magari, insomma, promuovendolo anche dal punto di vista sindacale, forse qualche passo si potrebbe fare. Io purtroppo devo concludere la trasmissione, dico purtroppo perché è un tema molto bello. C'è qualche ascoltatore che dice: ma insomma, non ci dimentichiamo che a 50 anni molti sono castrati da spese mutui, ardua iniziativa di questi tempi. Ricordiamo che le aziende non obbligheranno i lavoratori a fare queste scelte, ma sono tutte scelte facoltative, per cui, ecco, non vorrei che fosse addirittura passato questo messaggio. Grazie molte all'avvocato Falasca, al dottor Irano di Italia Lavoro e a Alessandro Rotaporta. Sicuramente ci ritorneremo per capire un po' quando magari saranno un numero maggiore le regioni che partiranno con la sperimentazione della staffetta generazionale, come sta andando su tutto il tessuto nazionale. A tutti buona giornata, grazie a Marco Lombardo, Gianmarco Ferronato, noi ci risentiamo domani e poi nel corso della giornata con la borsa. Buona giornata.